Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Null pointer, mi alzi la spia, per favore. grazie. Thank you. Sono tutte rotte, non sento un cazzo. Thank you. ghiaccio, ghiaccio. Il respiro è costante, è costante. E nel viso contratto, contratto. Una lana affilata, affilata. Tanti perduti, perduti. Restati in pace, in pace. Soltanto un secondo, un secondo. È veleno mortale, mortale. Per i canti di corpi, corpi. Resistenza e illusione, illusione. Nel giardino violetto, violetto. Funebre angoscia, angoscia. Palpabile buio, buio. E la pelle strappata, strappata. Cantato da noi. Asciuga, asciuga, asciuga, asciuga il tuo sangue, il tuo sangue. Thank you. sofferenza. inizia a mischiare il San Mitre e lo zolfo. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Della mia lunga miseria. Tu che fai il tuo marchio, che compri senza stile sulla fronte del reso disumano e vile. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Della mia lunga miseria. Assassone degli esiliati, lampada degli infessori, confessore degli intrigati, dei costi d'amori. Collera, cacciò Dio Padre dal paradiso terrestre. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Abbi pietà della mia lunga miseria. Grazie, Mogliegos of Silence, buonasera, buonanotte, ciao, grazie di essere venuti.